precisi, quasi precisi come i treni di una volta, arriva la sigla di questo schegge. Questa sera abbiamo veramente una rock band che ci delizierà e ci racconterà un po' la storia. Allora, il nome di questa band, Sound of Soul, uno penserebbe a un qualcosa di delicato, di il suono dell'anima, e in fondo sì, lo è. Poi insomma ascolteremo qualche brano. Ecco, Ra, come mai questo io non mi risento. Pronto? Allora, sì, dicevo, come mai questo nome? Sound of Soul, intanto, Corrado. Buonasera, buonasera a tutti. E dall'altra parte c'è il cantante. Buonasera a tutti. E lui è Paolo. Poi ci sono anche gli altri membri del gruppo. Li vuoi presentare? Matteo al basso e Danilo, non lo vedete, alla batteria. Mentre Corrado che fa? Io sono il chitarrista. E non solo. Principale compositore della band. Mentre il mio concittadino canta. Sì, esattamente. Almeno ci prova. No, canta bene, c'è una voce sto ragazzo. Beh, allora, prosegue questa sera questo filone, ormai l'abbiamo intrapreso, cioè di presentarvi delle proposte che in qualche modo rappresentano il territorio, e questi ragazzi, anche se hanno, come dicono i più bravi, un background abbastanza tosto, però comunque adesso stanno qui, rappresentano il nostro territorio e hanno fatto parecchia strada. Anche in questo caso, come è successo la scorsa settimana con Francesco Sbraccia, stiamo parlando di ragazzi che hanno fatto parecchia gavetta, quindi stiamo parlando di persone che se la stanno sudando, Corra? Sì, anzitutto mi scuso, io non sono pratico a tenere la mia voce in un registro così basso del radiofone, mi piacerebbe, però forse Paolo è più... La timbrica non radiofonica. No, allora ti spiego, la tua timbrica è perfetta, il problema è che noi non ci risentiamo quasi mai, quindi la nostra voce ci sembra... curioso. Può essere questo. No, è così, te lo assicuro. Io allora mi allineo sulla cosa che la mia voce è perfetta. Sì, no, perfetta. Perfetta. La gavetta, non so se si può definire gavetta, perché noi quello che facciamo lo facciamo perché ci piace, quindi abbiamo fatto tante cose che ci piacciono e stiamo continuando a perseguire l'idea di fare solo cose che ci piacciono. Forse è per questo che non siamo famosi, perché continuiamo a fare cose questa che è sempre piacciono. La solita storia. Beh, ormai dopo 2002, dopo 14-15 anni di attività sempre con lo stesso gruppo, 15 anni, mi sento abbastanza convinto di poter dire che sono i... Scusa Carlo, io Paolo lo sento bassissimo. Tu dici che va bene? Adesso lo sento meglio. Forse non ha parlato prima. Sì, molto probabilmente, perché sono rimasto in silenzio. Ecco, Paolo lo sa fare il timbro. No, ma così sembra quello, come si chiama, quell'attore... come si chiama? Quello... Sì, aspetta, come si chiama quello che fa quelle canzoni, che rifà quelle canzoni un po' strane, barese? Checco Zalone. No, adesso che ha parlato. Beh, un po' fisicamente sono quelli di Checco Zalone. Non ci perdiamo in chiacchiere. No, la gavetta sì, l'abbiamo fatta tanta. Ci piacerebbe continuare a farla, perché non è che se fare successo poi significa non poter più effettivamente dedicarsi a ciò che ci piace, non lo so quanto. Anche fare successo non sarebbe. Adesso... effettivamente, pensandoci, diciamo che. In e out, eh? Sì. No, Paolo, adesso ti faccio una domanda da un milione di dollari. Vai. Ma pesa questo? Perché vabbè, poi uno dice ok, io faccio musica perché mi piace, cioè, ma pesa questo non sfondare, o comunque non avere i riconoscimenti che uno magari si aspetta dopo tanto tempo, e del tipo vabbè, stop, io questa cosa non la faccio più? Ma secondo me se fai musica per passione, a prescindere ti piace fare musica, quindi diciamo che tutto quello che viene dopo, cioè il seguito delle persone e tutto il resto, diciamo è un di più. Però ovviamente dopo così tanti anni di chiamiamola gavetta, sì, uno magari si aspetta magari dei risultati migliori. Più che altro noi siamo delusi dalle poche opportunità date a band che fanno solo canzoni originali come le nostre, di suonare anche in loco, ti parlo in piccolo, anche nella regione, nella provincia, perché comunque ovviamente il titolare di un locale richiede sicuramente un tipo di musica che porti gente, quindi maggiormente di cover. Sì, questo è un discorso che avevamo affrontato l'altra sera anche con Vincenzo Melchiorre Ricci, che è un vecchio suonatore che in qualche modo si lamentava anche di questo, addirittura del fatto che i locali magari non è che siano così prodighi nel finanziare, nel pagare questi gruppi, addirittura ti chiedono anche ma tu quanta gente porti o queste cose qui. E in effetti non è un bel sentire, non è un bel vedere. Beh, no. Soprattutto quando c'è un periodo come adesso, dove diciamo la crisi diventa la scusa più giusta per ovviamente pagare meno scusa, i gruppi. La scusa di Stato. Ma il problema non sarebbe neanche quello, perché magari ci sono molti gruppi in giro che sarebbero disposti a suonare anche per due soldi, purché comunque riescano a suonare le loro canzoni, a dire la loro in qualche modo. E invece in questo modo diciamo abbiamo sempre meno spazio, a parte appunto queste situazioni che ci piacciono e comunque sì, ci danno. Certo. Allora vedete, io mi rivolgo ai nostri ascoltatori, vedete come è interessante, no, sondare questo tipo di terreno, nel senso di è interessante ascoltare le storie che ci sono dietro a gruppi, dietro la tanta fatica poi che c'è, magari anche qualche volta anche lo sconforto, qualche volta la rabbia, eccetera. Io credo che questa io lo dico spesso, questa radio è nata e continuerà a essere così per dare spazio a quelle che sono le realtà locali. Per noi è fondamentale, lo stavamo dicendo prima, è normale che grossi network non vengano a interessarsi di queste situazioni. Poi magari potrà succedere anche che potremmo dire magari fra qualche anno ma quel gruppo è stato ospite da noi, speriamo, anzi. Sì, ma io ma a parte che io ci credo, ma io lo spero fortemente, perché comunque è così, voi sapete, ho organizzato festival eccetera, la nostra prima intenzione era quella di andare a scoprire dei gruppi che poi magari avrebbero preso il volo. Però credo che stiamo parlando troppo e facciamo invece ascoltare la vostra musica. Che perché cosa? No? Allora, noi stasera abbiamo portato alcuni brani perché avremo anche noi ci stiamo imbarcando in un nuovo progetto, diciamo, cui ne parleremo se abbiamo possibilità nel dettaglio dopo, un progetto fino alle 10. Fino alle 10, un progetto che per noi è importantissimo, è una cosa vitale, quindi poi dopo spiegheremo, su cui c'è un stretto riserbo. La prima volta che ne parliamo e abbiamo colto l'occasione stasera. Siamo fortunati? Stasera, perché è una cosa che avevamo in progetto da tantissimi anni e adesso crediamo sia arrivato il momento di renderlo noto. E la prima canzone che vi vorremmo far ascoltare è l'ultima del nostro vecchio periodo, cioè del periodo prima di questo nuovo progetto. Perfetto. Si chiama The Dice, il dado, ed è una canzone che affronta appunto questi temi. Poi magari con calma potremmo spiegarvi anche parte del testo. Tranquillo. The Dice. Vai. How many years has passed since I brought you? Try to have it all, from the shores up to the cliff top, the decay on the crown will pull the mind to the open light among the me, or did you roll the dice? How many marching bands do you need, boy, to start a believe? Vocione, Paolo, ma da dove lo tiri fuori? The Sound of Soul, il sound dell'anima. E stavamo scherzando un pochettino, perché uno direbbe: oh, ma questo qui di dov'è? Del Galles, dell'irlandese? No, è un prodotto tipico nostro, ed è veramente, sì, non fermi tutti. Oh, questo per farvi nemmeno Corrado sento. Ok, siamo tornati. Allora, no, questo per farvi capire che siamo rigorosamente in diretta, che questa è una radio fatta in casa e che per noi, e noi la vogliamo così. stavo dicendo, appunto, sono tutti prodotti tipici nostrani, i Sound of Soul, IGP. Così come questa radio che io vorrei ricordare, lo faccio tutte le volte, questa è una radio Cerrano, è una radio strettamente collegata al Parco Marino. L'area marina protetta del Cerrano ci ha onorato del proprio imprimatur e noi ne siamo felicissimi. Siamo l'unica radio collegata in Italia, credo l'unica radio collegata a un parco marino, e questo ha anche un suo significato, oltre al significato, insomma, che ci piace la natura, che siamo molto legati al nostro territorio. Il significato anche è quello che un po' come l'area marina, noi siamo un po' circondati, siamo un po' un fortino che resiste, e vogliamo fare questo. Questa sera, dicevo, qui a Radio Cerrano sono ospiti i Sound of Soul, e i due Sound of Soul parlanti sono Corrado e Paolo, però dietro le nostre spalle ci sono due che ci riprendono e poi ci faranno scorrere nell'etere, più in qua, nel web. E tu mi parlavi, Corrado, di un progetto, però io, prima di arrivare al progetto, volevo anche fare ricordare un po' altre esperienze vostre, no? Come quella, ad esempio, irlandese, quindi la citazione di Paolo non era casuale. Sì, noi devo dire che alcuni, forse nella zona della provincia di Teramo, tendenzialmente dovrebbero sapere, perché non è che siamo, diciamo, non ce lo diciamo, non è che siete proprio sconosciuti. Siamo completamente sconosciuti. Quindi sì, abbiamo avuto le nostre. Sì, noi siamo stati nel lontano 2005, per poco più che ventenni, abbiamo caricato un furgone acquistato con patrocinio di Giorgio De Fabritis. Grande Giorgio. By Giorgio De Fabritis. Che, ricordiamo, un ducato dell'84. Un ducato dell'84, attenzione. Non la moneta, ma il furgone. Esattamente. Un ducato dell'84 che... Esce il bancario con lui ogni tanto. Sì. Che è purtroppo questa maledizione. Non lo diciamo, guarda, non lo diciamo. Sì, esatto. No, anche perché non c'è molto bancario. Infatti, sei un ossimolo vivente. Sì, poi con calma, microfoni spenti, sì, parleremo di questa situazione. Ciao Presidente, ciao a tutti. No, in pratica noi nel lontano 2005 abbiamo caricato questo furgone con le nostre, sicuramente, poche cose all'epoca, pochi strumenti, anche qualità così. Ma diciamo così, anche la parte un pochino familiare nostra, sì, pochi strumenti. Sì. Tanti sughi, esattamente, la pasta, il parmigiano, ovviamente i nostri pasta, genitori parmigiano, in apprensione per il fatto, esattamente. A me succedeva all'università. Noi abbiamo espatriato, quindi sì, ti lascio immaginare. Percorrendo la distanza di 2200 km più tutto, o meno da Santa per Margherita per sei a giorni, quindi diciamo che ce la siamo presi con molta con calma, molta calma. Sì. Santa Margherita Dublino in sei giorni. Comunque vi invidio, è stata un'avventura. Ma sinceramente, bellissima. Quando ci ripenso, anche io mi invidio, perché è stata una cosa molto bella, devo dire la verità. Se tornassi indietro lo rifarei sicuramente, con tutti i pro e i contro. Sì, tutti i pro e contro, sì. È una cosa romanzata, cinque anni e più, quindi non è che sono stati tutti giorni bellissimi, tutte cose, sono stati anche giorni difficili, perché insomma 20, 21, 22 anni a un 3 ore di aereo da casa non è semplicissimo gestire proprio la vita, lavorare, no? Però ci sta di peggio. Sempre c'è di peggio, c'è anche molto poco di meglio. sì, perché sì. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto dal punto di vista musicale, è stata enormemente formativa per noi, perché l'Irlanda, a differenza dell'Italia, è un posto... Avete suonato nei pub? No, abbiamo suonato, lì è un posto che a livello musicale, non abbiamo esplorato gli altri, non abbiamo voluto fare carriera in nessun altro ambito che quello, quindi non sappiamo nelle altre cose, però musicalmente parlando è molto meritocratica, cioè noi siamo partiti dalle bettole con 12, 13, 15 persone a guardarci, tutti parenti. O parenti, sì, che parenti. Venivano dall'Italia, poi tra l'altro dall'Italia, ma a nostre spese, per vedere, sì, chiamavate proprio il pubblico. No, ovviamente questo era, no, erano parenti autoctoni, sì, parenti, sì. Quindi c'era proprio c'era lì una comunità abruzzesi, comunità di abruzzesi. Però dopo, piano piano, concerto dopo concerto, credo che ne abbiamo fatti un centinaio. Sì, forse anche qualcuno di più. Anche qualcuno di più. Siamo arrivati a suonare nei principali locali della scena irlandese, ma non della scena indie irlandese, della scena irlandese. I locali dove suonavano gli U2, dove hanno suonato i Cranberries. Sì, tra esatto. Tra l'altro, Cranberries ci... anche per questa nostra cosa, la notizia della morte di Dolores. Sì, ecco, hai fatto bene ci ha drammaticamente colpito a tutti. Hai fatto bene a ricordarlo, perché io l'altra sera non sono... mi è passato di mente, ma comunque insomma, gli ultimi due anni per la scena, le scene musicali per non è che so proprio Sì, no, infatti io penso di darmi il neo melodico domani. Sì, sì, Paolo quello è il progetto di cui no. Sì. No, il problema è che non si percepisce, si tende a, se dovesse, quando muore, perché la morte di una persona giovane è sempre una tragedia, però quando muore una persona giovane in un ambito più formale, possa essere un manager, come può essere un qualunque, si percepisce una tragedia maggiore rispetto la morte di una ragazza comunque di 46 anni che aveva sicuramente dei problemi, però si tende a giustificare col dire, invece noi vorremmo dire che è una tragedia reale, perché questa persona ha una famiglia, aveva degli affetti tra i quali noi gli volevamo bene, perché per noi è stata importantissima, anche se non l'abbiamo mai e soprattutto aveva ancora molto da dare al mondo della musica. Certo, no, io ho letto, un artista splendido. Ma tanto che l'avete citato, io ho letto la lettera struggente questa sera del suo compagno. Del suo ex compagno, sì. Di Taylor. Sì, che praticamente dice che ormai la mia vita non ha più senso, il mio posto in questo mondo dopo la morte della mia compagna non c'è più. Quindi... come dicevi tu, spesso noi sminuiamo determinati drammi, ma in effetti io direi che forse sono raddoppiati, no? Come nel senso della Winehouse, certo, che qui stiamo parlando di tragedie personali anche. Si tende a non dare una connotazione reale al musicista, sembra che non sia una persona sì, reale. Sì, ma forse certe volte anche mascherato, no? Dice, vabbè, ma questi fanno sta vita sregolata, sì, certo, sta cosa. Drogati, alcolizzati. Sì, sì. Però è un disagio... quelli sono gli aggettivi, diciamo, voglio dire, pure Lapo è un drogato alcolizzato, ma è difficile che... Lapo, per dire, un nome di fantasia. Sì, sì, non esattamente. Nessuno, sì. È il primo nome che mi è venuto in mente. Però è differente l'approccio. Cioè, Dolores aveva dei problemi reali a gestire questo tipo di... perché non, teoricamente non le mancava niente. Aveva un talento incredibile. Soldi, perché di questo sembra che tutti oggi cerchino i soldi. Quindi soldi ne aveva per altre 10 generazioni. Teoricamente non avrebbe dovuto avere nessun problema. Eppure lei, come tante, non è riuscita a finire il suo percorso di vita, perché schiacciata da cose che non... quando si risolvono quei problemi, ce ne sono che noi pensiamo siano i problemi appunto di tirare avanti, di fare successo, poi si creano altri problemi che forse sono più... altre sono esigenze. Peggiori, sono è peggiori, vero, quindi bisognerebbe riflettere a volte su... Eh sì, purtroppo è così. Esperienze. Io credo che spesso... Ma non solo nel mondo della musica o dello spettacolo, io credo proprio che questo tipo di società tende un po' a minimizzare e a scacciare o... nel caso più brutto, ospedalizzare i drammi o come se si volesse in qualche modo allontanare, no, da questa società che deve essere per forza bella, intelligente, certo. Attraente, no, intelligente no, attraente, no, giovanile, comunque sempre in forma, si tende un po' a emarginare questi drammi ed è la cosa più errata, perché poi uno, ripercorrendo un po' la storia sociologica anche dell'uomo, se noi pensiamo ai nostri nonni che morivano nelle case e ai nipotini veniva fatto vedere il nonno che moriva o che era morto, ma perché era l'approccio con la vita. Il viaggio della vita. Esatto, certo. Era questo il viaggio della vita. Ecco, allora forse qualcosa dovremmo ripensare. Però... Torniamo a noi sui nostri... comunque non era per dire che Dolores ci mancherà come ci mancano, sì, gli altri, a noi mancherà tanto. Ma poi da quanto pubblico, cioè... e noi siamo arrivati, sì, appunto, da poche persone a riempire i locali principali della Dublino importante. Sì, l'Academy One, tipo Academy là. One, certo, sì, anche sì. Il Button Factory, cioè locali Button Factory, il Temple Bar Music Center, il Temple Bar. No, noi abbiamo, ci siamo fatti delle soddisfazioni, diciamo, in Irlanda. No, io mi ricordo. E anche Limondoro, insomma, citiamolo appunto, perché appunto Limondoro, è stato certo, il locale d'esordio dei Cranberries. Santa Santorum della musica indie. Sì. No, io mi ricordo il mio adesso apro una parentesi personale, mi ricordo il mio primo viaggio a Dublino, proprio il mio primo approccio a Dublino, che arrivammo in aereo, vabbè, intanto partimmo da Roma che erano 41 gradi e arrivammo a Dublino che c'erano 16 gradi, 12 gradi. Ma l'estate irlandese, famosa estate irlandese. E mi ricordo che appena appoggiamo i bagagli, poi questi amici miei che erano andavamo lì per la birra, anche andavano per la birra. Io non è che sono, per i musei. Non sono un grosso bevitore, però mi ricordo che entrammo in questo pub, ma era minuscolo, era più la metà di questa radio. E allora sti amici miei ordinano la birra e tutti quanti fecero a pint of beer, a pint of Guinness, a pint. E io, quando ho visto la pinta, a pint, ho detto no, questo io. Allora ho detto io a questo qui, for me half pint of beer. Allora questo mi guarda, sto tipo... È stato malmenato, credo. Sì. What? E io gli dico half pint of beer. E questo, what? What are you, a girl? Yeah. Yeah. Half pint, only for women, not for men. No, veramente in Irlanda neanche per le donne. Neanche per le donne. L'esordio invece in un pub dove c'era quella ragazza che prese praticamente una pinta intera di Guinness solo con i denti, si fece una calata senza toccare il bicchiere con le mani. Incredibile. Sì. Ho visto cose che voi umani nemmeno immaginate. No, l'Irlanda è un posto strano. Sì, poi, magnifico. Sì, è un posto bellissimo. Io sono salito a Stemio. Sono tornato male. No, poi anch'io devo essere sincero, io poi mi sono fatto la mia pinta e me ne sono fatto un'altra, perché poi fondamentalmente le birre sono diverse da quelle. Ma è una questione culturale, l'ambiente che ti stimola ad avere quello. E subito dopo capii anche il perché c'era musica, oltre che all'interno del pub, ma anche all'interno del bagno, che inizialmente non capivo, poi capii perché passi metà del tempo. Alla fine è intrattenimento anche quello. Sì, c'è bisogno di intrattenimento anche lì, certo. E altra cosa era il campanellino, della campanella dell'ultima. Sì, è veramente un paese splendido. L'Irlanda è un paese che. Dove si suona? Se si suona, è un posto da. E si gioisce anche. Un popolo gaudente, come si suol dire. Sì, avrebbero da imparare da noi italiani, avrebbero anche da insegnarci. Sì, anche se c'è un ottimo feeling, credo, tra italiani e irlandesi. Io ho un po' sentito questo quando sono paio di volte. Diciamo che più o meno gli italiani, un po' con tutti, hanno sto feeling. Sì, però diciamo. Loro ci tenevano. Loro ci tenevano, anche perché no, sapete meglio di me questa grossa spaccatura con gli inglesi, ma loro ci tenevano tantissimo a sottolineare questa vicinanza, no, del popolo. Siamo due popoli emigranti, storicamente parlando. Bravo. Siamo emigrati in tutto il mondo. Quindi è vero. Ci sono cose che ci accomunano. Che sentiamo adesso? Adesso sentiamo una canzone che fa parte del nostro periodo irlandese, che si chiama The Puppets Evaluation Day. No. Yeah. Sì. Allora, no, adesso stavamo un po' discorrendo, naturalmente a microfoni spenti si discute, si raccontano le cose, poi si... dobbiamo ricordare che noi siamo anche su Facebook con una diretta e quelli che ci stanno guardando poi ci fanno anche domande e allora volevo ricordare a Tony Gallo che noi stiamo parlando di musica, non di aerei, e quindi questi nonostante sono la presenza di Paolo, che è un aviatore, sì, un anno, sì, di scuola, sì, di aviazione. Veramente? Sì, sì, quindi si potrebbe, forse si è confuso l'ascoltatore perché Paolo è un noto. Succedono cose. Sì, succedono cose. Si sente gente. Mi sento poco. Non dalla mi mano. Sento male. Ecco. Adesso mi sento meglio. No, dicevamo, allora Antonio, questa è, lo sai benissimo, è un programma che conduco io e quindi sono Schegge, quindi stasera parliamo di Sound of Soul, è un gruppo delle nostre parti che però ha avuto un periodo abbastanza lungo in Irlanda, stavamo parlando proprio dell'Irlanda. Quinquennio. Del, sì, quinquennio irlandese, e poi però dobbiamo salutare anche Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio di Epica. Di Epica. Grande Giorgio. E poi dobbiamo salutare anche Stanislao, che vi ha fatto i complimenti. Grazie. E vi giuro, grazie, che questa, grazie, è tutta cosa, nel senso, non c'è nulla di preparato. I nostri ascoltatori vengono lì, vengono qui, anzi si fermano, ascoltano, magari poi vanno via, insomma è così, la rete è così e a noi piace anche così. Io risaluto in maniera formale Giorgio, ma il Giorgio quello originale. Ah, certo. Il Giorgione. Anche perché Giorgio, insomma, ultimamente mi è stato anche vicino, insomma, diciamo che è uno che, su cui posso contare. Ognuno ha i suoi problemi. Sì, grande, ognuno, Giorgio. Grande Giorgio. Grande Giorgio. In tutti i sensi. E, sì, sì, esatto. Su questo. Quindi, dicevo. Il figlio è sulla buona via. Sì. Dicevamo. Questione irlandese. No, dicevamo appunto, il vostro sound è un bel sound, dai, io lo lavoriamo, dico, molto, perché lo dico in maniera spassionata, anche se sono legato a voi lo sapete, insomma ci siamo conosciuti diversi anni fa e quindi potrei sembrare di parte, ma io parlo da cultore di musica, ecco, da persona a cui piace la musica, a cui piace tutta la musica. E in effetti il sound e il suono, altrimenti ci sarebbe la cacofonia con Sound of Soul, il suono, il vostro suono è un bel suono. Ci avete lavorato tanto, dicevate? Sì, ci lavoriamo tanto, tantissimo, perché i musicisti della nostra generazione, anche soprattutto la generazione dopo la nostra, qui veniamo al progetto che stiamo inaugurando stasera, hanno dimenticato il fatto che teoricamente la parte fondamentale del lavoro di un musicista è la musica. Adesso si predilige più la parte, per carità, che è importante pure, la parte relazionale, la parte dell'immagine, anche la parte della, diciamo, di costruire per il futuro. Cioè, gli artisti di oggi, mentre una volta quando usciva un disco, noi siamo degli anni 90, quando usciva un disco degli Oasis, degli U2, dei Cranberries, dei Nirvana, di chiunque, si aveva l'impressione, quando è uscito Nevermind, per esempio, per non dire sempre gli Oasis, ecco. Nevermind, si aveva l'impressione, subito si è stata di fronte all'impressione, può piacere o non piacere, però si trattava di un disco che avrebbe fatto epoca. Adesso con i nuovi, anche le mega band, c'è sempre questo senso che il prossimo disco sarà un disco che farà epoca, il prossimo disco dei Coldplay, il prossimo disco dei Muse. Questo perché? Perché si lavora poco sulla parte della musica, nel senso ci si dedica troppo a cercare di convincere le persone a rimanere connesse anche per il prossimo progetto. Per cui il progetto che si segue in questo momento inevitabilmente passa in secondo piano, io credo, probabilmente è un'incredibile stronzata, però io mi sono fatto questa idea perché sennò non è possibile che in un decennio siano usciti 30 dischi magnifici e negli ultimi 17 anni, oggettivamente, per quanto riguarda la scena rock, Non parliamo di niente, parliamo di quasi un ventennio totalmente buttato, perché i migliori dischi sono comunque cose riprese palesemente dal passato. Sì, ma poi c'è da dire anche che i gruppi, quelli come dicevi tu, storici nel senso che, sai, pesanti, che hanno fatto la storia. Ecco, sì, ma poi pesanti si contano, dico, su due mani, toh. Però ogni epoca ha avuto i suoi. E ogni epoca, questa. Sì, tranne questa. Questo è vero. Vabbè, siamo palesemente nell'epoca del consumismo, dell'usa e getta, quindi si sta trasformando l'arte in questo, una macchina che fa soldi e poi viene gettata. Ma fa anche meno soldi, questo è il problema. Nelle vostre parole noto un larvato... una larvata, come si suol dire, polemica. Diciamo polemica. Che ci troviamo in disaccordo con la maggior esempio, parte della discografia, diciamo, mondiale. No, sinceramente noi abbiamo avuto tanti contatti con anche persone di rilievo, perché noi, diciamo la verità, negli anni ci siamo fatti conoscere, abbiamo, forse non so perché, no, quello no, che no, facciamo allora, racconta no, dici, racconta anche quali no, sono non si stati... possono fare nomi perché non ho i soldi per gli avvocati, quindi non no no ma posso... dicevo no no ra, no no racconta ah, okay. Racconta o comunque cita un po' le vostre conquiste, le vostre mete, no, raggiunte. Ti ripeto, noi siamo tornati all'Irlanda, che non dico che eravamo qualcuno, però avevamo un progetto già avviato, siamo tornati qui e in un anno e mezzo, scarsi due anni, tu ricorderai, abbiamo riempito il teatro di Atri, fatto quell'evento che comunque chi c'era se lo ricorda ancora, è stata una cosa particolare, ringraziamo tra l'altro Vincenzo Irelli e Enrico Irelli che sì, esatto, in quell'occasione ci hanno supportato con uno show che probabilmente, quello, devo essere onesto, non è stato il fatto che loro hanno sposato la causa, ci hanno permesso di mettere in piedi uno show anche visivo, sì, di livello alto. Di livello altissimo, sì, non alto, si parlava, sì, di cose, tu ricorderai l'Edwall, sì, erano cose che non hanno, non diciamo che sono cose a proposito di immagini, particolari, a proposito, esatto, di immagini, ma lì c'era un senso di dare un senso alla musica, a quello che stavamo facendo. Anche il Teatro di Atria è uno scenario che è uno scenario importante, ci hanno suonato di gruppi rock, ci hanno suonato gruppi rock importanti. Sì, sì, è vero, è vero. Quindi vero. Non è che non è stato, sì, fatto a caso la scelta. No, sì, però insomma voi avete anche e poi siamo andati sfondato avanti, certo, siamo a avanti. Livello anche di rete, vi siete... Siamo andati avanti, sì, però sì, poi sì, dopo sì. Inevitabilmente una volta a contatto con la discografia italiana che conta, questo lo dico senza retorica perché poi si fanno delle scelte, noi abbiamo scelto di non sottostare a determinati compromessi che... Inevitabilmente, e io una volta quando avevamo 20 anni tendevamo a definire squallidi, schifosi, quello che sia. Adesso definiamo semplicemente una strada, che loro, il sistema funziona così, e noi, se tu vuoi far parte di quel sistema, quelle sono le regole, se no sei fuori. Noi abbiamo sempre, ovviamente, se siamo, non siamo ancora sui network nazionali, grazie a Dio, è perché siamo riusciti a superare quel senso di frustrazione di non riuscire a uscire, quel senso di depressione di dover fare chi il cameriere, chi il banchiere, chi... Danilo credo si occupi di è un hacker, credo, a questo, sì, punto, esatto, è un hacker, nessuno sa che è uno dei massimi esponenti di Anonymous. Nessuno sa che è un massimo esponente del deep web. Auto blu vanno e vengono dalla sua abitazione ogni ora del giorno e della notte. No, però non riuscirò a vivere. Quindi di è musica più piazzato lui. Danilo sì, è piazzato. non riuscire a viverci è un dramma per uno che fa il musicista, perché noi il nostro sogno è quello di poter fare tutto il giorno questo, cioè stare in radio a raccontare della, sì, musica, a suonare, andare in giro per il mondo a suonare, e non lo possiamo fare perché le regole che ti impongono per poter fare questa vita praticamente poi la vanno a confutare, cioè ti dicono se tu vuoi fare questo devi fare tutto tranne che questo, e allora finisce, sì, tutto in quel momento, finisce tutto. E noi abbiamo completamente litigato, usiamo un termine infantile, con la discografia italiana. Non ne vogliamo più sapere. Dopo le ultime esperienze, non vogliamo più avere a che fare con nessuno delle persone al vertice, perché le persone al vertice, come in tutti i settori in Italia, vanno cambiate, perché non hanno più il polso della situazione, secondo noi. Questa è la nostra opinione molto personale. Sì, no, io questa cosa è comune, purtroppo è comune. Io ne parlavo anche a microfoni spenti la scorsa settimana con Francesco Sbraccia, ma io faccio dei piccoli così flash. Quello che stanno dicendo loro, che stanno dicendo i Sound of Soul, è talmente vero ed è anche talmente sconosciuto che chi sta fuori determinati giri assolutamente non immagina, cioè non immagina che tu devi pagare 30.000 euro un ufficio stampa che ti poi crea il nulla, ti crea comunque, oppure nessuno immagina che determinati musicisti al vertice del jazz italiano, jazz per modo di dire, oppure della musica della world music, sono semplicemente fenomeni creati ad hoc da determinati meccanismi. Cioè tutto questo purtroppo il fruitore finale non lo sa, non lo capisce o non capisce. Io però faccio potrebbe un esempio. Sospettarlo. Sì, potrebbe sospettarlo, però la decrescita, insomma, della qualità, perché è evidente che c'è una qualità. Sì, ma secondo me, è un gatto che si morde la coda, cioè il cosiddetto ascoltatore medio piace così, cioè proprio medio, anzi sotto alla mediocrità, perché comunque poi beve tutto quello che viene propinato da determinati ambiti. Questo noi, io adesso non è che voglio fare sempre la solita storia, perché qui in questa radio ne abbiamo parlato tanto, ma la nostra, io mi ricordo, il mio approccio alla radio ad esempio fu un approccio appunto di ricerca. Io ero felicissimo di fare radio perché tutto questo poi mi permetteva, a costi bassissimi, perché poi i dischi li comprava il padrone della radio, di ascoltare musica, di ricercare musica e fare ricerca grazie anche ai miei amici eccetera, perché poi la musica è un viaggio, no? Sai da dove parte, non sai dove dove arrivi, dove ti porta, ognuno c'ha il suo viaggio però personale. Ed è questo, io vedo purtroppo che i ragazzi questo gusto, no, della scoperta, quindi che ne so, parti da Lucio Dalla, poi approdi a Herbie Hancock o da un'altra parte, ma perché poi il percorso è quello, cerchi sempre di andare oltre. E adesso questa cosa non c'è, ti accontenti, come dicevi tu, di quello che arriva dai cosiddetti... Ma è il periodo che è così, sì, non dai, si cerca più niente. Non cosiddetti, anzi, dalla televisione, da questi sì, talent show che... E poi io scommetto, se io domando, ma chi è che ha vinto il talent show del 2 anni fa, 3 anni fa, che fine ha fatto, che tipo di carriera? Uno mi sembra di averlo visto fare il benzinaio nelle parti di Loreto, però poteva non essere lui, non lo so, poteva non essere lui. Appunto, questo è emblematico. No, ma il problema è che a me dispiace per quei ragazzi, perché non si rendono conto del fatto che vengono... masticati, possiamo dire, da questo sì, sistema, sì, perché sì, loro masticati e digeriti, perché gli viene data una possibilità, spesso vengono, sì, da famiglie non... Ma diciamo che creare, diciamo, un artista in un programma televisivo un po' come creare un essere umano in laboratorio, non è naturale, è una cosa artificiale. Se lo dici con sta voce sexy poi cose grosse. No, ma lui ha ragione, insomma, si discute ancora di questo. Il problema è che purtroppo adesso si fa il contrario, si crea prima il pubblico, sì, e poi il musicista. Sì, esatto, si questo fa un'indagine di mercato e si costruisce la canzone. Questo non si può costruire una casa dal tetto. Sì, è come non se è fattibile. Sì, ti guardano la faccia e ti dicono: "Ah, questo potrebbe fare sto coso qui", ma che poi tra parentesi talenti ce ne sono, ce ne sono. Sì, sì, ce ne sono. Bisognerebbe molti definire talento, perché io credo che una persona su 3 al mondo possa cantare bene, quindi parliamo di 2,5 miliardi di persone, non è questo il problema, il talento è un'altra cosa, cioè non è che Bono canta solo bene, cioè, è tutto un insieme di cose che fa degli U2, gli U2, non è solo il fatto che quello ha una bella voce o quell'altro scrive belle canzoni. A proposito di talento, ti ringrazio per l'assist, no, adesso mi volevo rivolgere a Paolo. Sì. Allora, tu Paolo c'hai una voce particolare. Sì. Ma quanto ci hai lavorato o quanto culo hai avuto, nel senso che c'hai una voce così? Allora, diciamo che la maggior parte è stato culo, sicuramente, perché comunque il mio timbro è molto particolare. Sì, se... è vero. Diciamo il taglio della mia voce è molto, una percentuale molto alta appunto lo fa il timbro, però se devo essere sincero sto ancora lavorando sulla mia voce. Ma quando te ne sei accorta di sta cosa? Io diciamo che l'ho sempre saputo, io ho sempre cantato sin da piccolo in macchina, sempre con gli amici, anche quando si suonava la chitarra così in modo gogliardico, così le sere diciamo intorno al fuoco, le classiche serate diciamo, ho sempre cantato. Poi un giorno per sbaglio praticamente non sono andato a scuola, diciamo, ho fatto il filone, sì, filone. O passo, come sì, dicevano le nostre parti. Praticamente ero in macchina con un mio amico che mise un CD dove c'era Corrado che suonava una canzone acustica. Era Marco, il primo bassista, sì, che salutiamo. Diciamo. Marco Ricchiudi, sì, lo salutiamo. Mi ricordo la canzone era Just e la cantava lui. Mi piacque subito la canzone, però la prima cosa che dissi: guarda, secondo me la canzone è bellissima, però il cantante, diciamo, può dare di più. Da quella volta, diciamo che mi hanno provinato, uh-huh, facendo cantare anche una canzone di Ligabue, ahimè. Luciano, che salutiamo. Ciao Luciano. Se ci sei, puoi seguire sulla nostra diretta Facebook. Assolutamente. E quindi, no, è interessante questa cosa, perché può sembrare una stupida, ma questa è una zona dove le voci riescono bene, ringraziando il cielo. Sì. E poi, ecco... La caratteristica, siamo sinceri, la caratteristica di questo gruppo, dei Sound of Soul, è che io ho ascoltato alcuni dischi loro, mi hanno coinvolto anche un periodo, è data proprio dalla voce di Paolo e da questo suono molto molto internazionale, cioè non prettamente italiano, diciamo. Sì, quindi viene fuori la vostra esperienza fuori, viene fuori anche, vengono, certo, fuori i vostri ascolti, quindi certo, i vostri gusti, questo è giusto che sia così, e sono i due segni caratteristici. Io mi ricordo, però vi feci un piccolo appunto. Sì. Ti ricordi? Non ti ricordo. Quello dei capelli, i capelli di Paolo? No, no. Ah, io... no, quello dell'italiano. No. Esatto. Scusa, insomma, non so se avete notato, chiunque possa vedere, adesso mi vedo io che so bellissimo, però prima quando stavo facendo vedere Corrado, proprio, diciamo... Siamo proprio qua una... Non è che stiamo parlando di Lorenzo Lamas nei tempi migliori, insomma. No, ma stiamo parlando proprio di tre, sì, eh? Diciamo che sembra che esplosa una monotofa in testa, quindi... Capellone. Sì, infatti sì. No, dicevo, sta cosa italiana. Poi voi avete fatto una cosa, mi ricordo. Noi abbiamo tentato di fare anche l'italiano, è stata una cosa, uno di quei magnifici fallimenti, nel senso. Ma che stai mangiando? Una caramella, o quello che fanno con l'appendicite. Sì, esatto. No, abbiamo tentato di fare un progetto in italiano che si chiama L'industria adriatica è in crisi e le lacrime riempiono i fiumi. Il titolo è molto, positivo, commerciale, diciamo, sì, sì, esatto, sì, è molto, no, era anche stato leggero, è stato anche drammaticamente profetico, perché stato scritto in un periodo pre-metei strani. Come scusa il titolo? L'industria adriatica è in crisi e le lacrime riempiono i fiumi. Io ce n'ho un'altra, perché io quando ero un po' più ragazzino feci uno spettacolo, partecipai a uno spettacolo che si chiamava L'amore morì, anzi non è mai esistito, ovvero sia l'uccisione della donna fatale. Va fregato questa cosa. Beh sì, sì. Questo è un po' più, diciamo, chiaramente. E lo spettacolo finiva lì, sì, perché era già, si capiva. Sì, beh, infatti sì, mi sono pure rovinato la serata un attimino. Ma come mai questa cosa? Un bello di tristezza. Sta depressione getta a terra, non lo so che faccio. Ma come mai questo titolo di questa... Diciamo che abbiamo voluto toccare, soprattutto diciamo col disco in italiano, un bel po' di temi sia sociali che politici anche. Diciamo, nel disco ci sono diversi pezzi che parlano appunto della situazione, soprattutto appunto la title track, che è L'industria adriatica in crisi e le lacrime riempiono i fiumi. Diciamo che è una critica anche molto, diciamo, ecologista. Appunto questo incentivare, diciamo, sensibilizzare anche un pochino la gente a pensare a questo tipo di problemi, più nello specifico nel nostro logo. Oh, l'ambulanza è un effetto, sì, che mettiamo noi ogni tanto. Lo fa Danilo, sì, con la voce, che... tipo quello di scuola di polizia. Sì. Ah, quindi mi stavo incartando col discorso e quindi sì, si è sentito male qualcuno, è partita l'ambulanza, sì. No, qualche maligno dici che era per te, che per la storia della depressione. No, mannaggia, già ti hanno trovato. Sì, 3 minuti. No, però... questo vi fa onore, no? Il discorso di stare nel tessuto sociale, giustamente volerlo raccontare, secondo me è fondamentale per chi fa musica, cioè un musicista che è avulso dal tessuto. Insomma, eppure è un'altra caratteristica dei nostri contemporanei, nessuno dice mai se è di destra, se è di sinistra, se quello gli va bene, se quello non gli va bene, non si prende più posizione, quindi... questo è accaduto storicamente dagli anni 80 in poi, cioè è accaduto... negli anni 90 c'era un senso di... Sì, adesso c'è più populismo che è più critica, diciamo, la musica non muove più una critica, ma appunto, sì, perché comunque non vendi, perché è molto incentrata su fare i soldi, quindi non si trattano, sì, più, appunto. Non è più la cristallizzazione dell'emozione, l'arte, la canzone, il quadro, il libro, qualsiasi forma. Ma stiamo parlando di una società che comunque di per sé è qualunquista, nel senso, quindi in questo senso anche il cosiddetto musicista, e sottolineo cosiddetto, non prende posizione, mentre dobbiamo proprio per quella cosa che diceva Paolo, no, del non riuscire a monetizzare poi la propria musica, e mentre invece la musica per anni, vabbè, non voglio parlare degli anni 70, ma dico anche musica classica, no? È stata musica che anche ha inciso non poco su avvenimenti storici, avvenimenti sociali importanti, perché comunque il musicista vive una sua, vive la realtà e quindi si esprime attraverso la mediazione appunto della realtà. Io credo che sia, ecco perché dicevo che questo disco in qualche modo vi fa onore. Però è un disco che non ha mai visto la luce per motivi, perché noi non abbiamo ceduto ai famosi compromessi di, come dire, di togliere un po' di questi, perché poi i messaggi su questo disco erano, noi siamo persone dirette, cioè cerchiamo di essere persone dirette, quindi erano messaggi forti, erano messaggi, si capivano i destinatari, sì, abbastanza anche, diciamo, bene. Diciamo che non sono quelle canzoni che magari cerca l'italiano medio, un po' più leggere. Sono dei temi che fondamentalmente vanno a toccare anche la profondità del problema e quindi diciamo richiedono anche un ascolto un po' più attento. Ci sono anche canzoni che sono state scritte per delle cose molto cioè cose enormemente drammatiche successe nelle nostre vite personali, sì. Cose che non si usa più, perché io non posso credere che Biagio Antonacci ha 50 anni, ogni settimana ci sta qualcuno che lo lascia, cioè lui vivrà qualcosa di diverso nella sua vita, dovrà scrivere prima o poi di qualcosa di diverso. E allora noi abbiamo deciso di interrompere questa cosa che si può scrivere solo di quello. E avete scritto una cosa che in cui lasciate voi. No. Sì, esatto, quindi lasciamo noi. No, purtroppo di drammi veri che sono successi nelle nostre vite, perché noi come tanti, come tutti, abbiamo alti e bassi. Quindi c'è anche l'autobiografia, no? Certo che c'è, ma ci deve essere l'autobiografia, perché sennò non è plausibile scrivere un disco se non parla di chi lo ha fatto. Fondamentalmente siamo lì. È una follia. Secondo me le canzoni che appunto cantiamo sono un po' la storia della vita di questo essere che sono i Sound of Soul principalmente, diciamo. Però io mi ricordo una lontanissima intervista che feci quando ci avevo i capelli a Vecchioni, e lui mi diceva, si toccava proprio questo tipo di tema, no? Quella dell'autobiografia o comunque, lui mi diceva che i primi due dischi, i primi tre dischi tu ci metti tutto dentro e ci metti tutto quello che ti riguarda, poi comincia a essere un po' difficile, poi comincia a essere anche, tant'è vero, vi ricordate proprio Vecchioni fece, cominciò questa storia delle favole, delle cose, delle tematiche prettamente letterarie. E quindi anche qui magari c'è la stanchezza. Voi non vi siete stancati? Ma no, perché poi anche Vecchioni non si è stancato, perché l'autobiografia non riguarda non è una questione di nozionismo. L'autobiografia, cioè io sono Sogna ragazzo Sogna, è chiaramente una canzone autobiografica, nonostante non parli di lui, però parlo dell'autobiografia della sua esperienza. Io quello intendevo, nel senso di cose che lui ha vissuto. Probabilmente quello, a me mi sembra che una canzone del genere sia il passaggio a un'età in cui la collina si è superata, si vede la parte, si vede diciamo la parte di là della collina. Vabbè, non tocchiamo sto tasto. Non tocchiamo il tasto. Musica. Painkiller, find a way to give up on me and leave me here again. To shiver in the darkness of the street, I barely recognize myself, my eyes, my fear. But she's so easy on the eye, she's so easy on the eye. Everything gets on to make it right. It pushed me out, it pushed me far from here. Everyone you know is a blinded spot. I touch the velvet of my throat. I'm breathing, but she's so easy on the eyes. She's so easy on the eyes. For the million miles we walk before we finally walk home. For the angel next to me and my old car stuck in the snow. For your heart that may rise where your body's known. For the people in this room who don't believe to any word I see. I remember that I was so happy, then I find my inner smile was it wise. I have done the math, I found me amused by all these shadows of the dust, my friend. But she's so easy on my heart, she's so easy on my heart. or the lion and the sweet lost his way to Africa. For the Javali choir that's in there, that's on to the old king. For the night we belong together, even if we're part. For the hopeful king who was me, and I'm coming back. All those bad days we lie down on the floor, all those faithful caring hands we used to love. One last time we roll, it dies in the dark. She's so easy on my eyes and on my heart. She's so easy on my eyes and on my heart. She's so easy on my eyes. And on my heart, she's so easy on my eyes. And on my heart, she's so easy on my eyes. And on my heart, she's so easy on my eyes. And on my heart. Adesso vi spiego. Lo so che ve ne frega poco, però lo voglio spiegare anche ai nostri ascoltatori. No, la sigla, la sigla. La sigla è un omaggio a a Narada Michael Walden, ma questa era una sigla che usavo io quando stavo in una radio privata. Però l'omaggio è, oltre a Narada Michael Walden, soprattutto a Corrado Rustici, che è uno di quelli che è partito dall'Italia e si è fatto grande. Con la sua chitarra. E questo vuole essere anche un piccolo messaggio, no? Nel senso che la vita, il mondo è così: tu parti da una piccola realtà, poi arrivi, e se sei bravo, se sei veramente dotato, anche con un pizzico di fortuna, diciamocelo com'è, perché insomma quella non guasta mai, no. Arrivi. Ed ecco perché io l'ho rispolverata e la prima sera l'ho messa qui e poi mi fa sentire bene, mi fa tornare indietro, la cosa mi fa bene. Allora, messaggi istituzionali li dobbiamo dovuti fare. Questi sono, siamo a Radio Cerrano, sono ormai le 21 e 38 minuti, sì, 38 minuti primi, siamo in diretta. Radio Cerrano la potete ascoltare sia attraverso il nostro blog, che è www.radiocerrano.net, oppure attraverso una serie di piattaforme come TuneIn, come Listen to My Radio, o come stanno scritti là, come recita il manifesto, come recita il manifesto Radio, il Garden. Radio Garden è fighissimo, una cosa bellissima. Andatela a vedere perché è una cosa bellissima, perché appare tutto il mondo e poi è una specie di Google Art per le radio. E poi naturalmente abbiamo la nostra pagina Facebook su cui stiamo adesso siamo in diretta. Che devo salutare? No, siamo anche su Telescope. Siamo anche su Telescope. Periscope, credo che più che Periscope o Telescope? Telescope, non Telescope è un'altra cosa. Sì. No, poi siamo sulla Luna. Una cosa importante è questa, che noi registriamo sempre le nostre trasmissioni, quindi poi in podcast li potete riascoltare, scaricare. E questa cosa noi la facciamo a ragion veduta, nel senso che vogliamo creare un vero e proprio archivio che poi insomma diventi un qualcosa anche, vabbè, adesso dico un parolone, no? Storicamente importante, però a noi in questo momento può sembrare stupido, ma che ne sai, fra 20 anni che... Io pensavo addirittura si autodistruggesse dopo la trasmissione. No, in realtà voi volete lucrare se WhatsApp. Qualcuno diventa famoso. No, no, è WhatsApp che si autodistrugge, no, Snapchat. Snapchat, non lo sapevo io. Quindi, no, ma non e siete, i biglietti dell'ispettore Gadget. Non pure. Siete. Si autodistrugge. Non siete, se non ricordo male. Ecco, qual è il vostro rapporto con la tecnologia? No, io ho un grande apporto alla tecnologia. No, Corrado lo so. Corrado l'ultimo, cioè, l'ultimo modello della Omnitel, penso. No, Corrado, cioè, della SIP forse. 1518. L'ultimo Moicano. 1518, il mio telefonino. Corrado, adesso è arrivato il momento. Vai. Clou. che succede? Il progetto. Ah, ok, no, pensavo che entravano nelle... Allora, no, il progetto, aspetta, diventiamo seri per un minuto, okay, perché... Siamo stati seri fino adesso. Ah, ok, parlavo con Paolo principalmente. L'impostazione seria. No, allora, il progetto è questo. Noi dopo... anzi, è stato un ottimo assist il tuo per parlare della tecnologia, perché noi per anni effettivamente abbiamo avuto una sorta di ripudio nei confronti della tecnologia. Noi siamo forse l'unico gruppo, credo, sicuramente che conosciamo noi in Abruzzo, che ha comprato un vecchio, pagando tanti soldi, un vecchio registratore a nastro dell'83, e registriamo, no, ma un 8 piste, una cosa per l'epoca, sì, professional, sì, diciamo, sempre da studio. Da studio, sì, con nastri a 100 euro al mezzo nastro, pollice, mezz'ora, sì. E i dischi, sì, noi li abbiamo registrati, l'industria ha registrato live, suonando, sì, tutti insieme, contemporaneamente, noi, senza editing, quindi dentro un registratore a nastro. Cose che... insomma, vanno studiate bene, cosa non bellissima, ci si, no, però non, sì, ci si però può improvvisare. È anche molto molto difficile da fare, non è che abbiamo riscontrato poche, so, difficoltà nel registrare, non è semplice, immagino, suonare tutti insieme senza che nessuno abbia la possibilità di sbagliare niente. Vabbè, vi piace soffrire, questo, sì, sì, però il risultato è poi è discretamente superiore rispetto a quello che si può ottenere in uno studio normale. Però questo nostro rifiutare la tecnologia avrebbe avuto un senso probabilmente se noi fossimo stati già famosi. Ci siamo accorti che purtroppo, sì, esatto, no, bisogna essere onesti, perché, sì, bisogna, beh, anche fare un dei mea culpa se quando ci si trova alla veneranda età di 33 anni, si può fare. Aia. No, la veneranda età di X anni si può anche fare. No, no, senza nessun riferimento, io parlavo di me. Parlavo di sei me. Un agente provocatore. Parlavo di me. No, il mea culpa nasce dal fatto che noi siamo rimasti così come a non volerci, perché il web principalmente è un'opportunità di esporsi. Il problema è che ci sono molte cose brutte sul web, molte cose trash sul web. Allora noi siamo sempre stati lontani perché pensavamo di andare a finire in questo fiume, di essere risucchiati, no, in questo fiume come un... del qualunquismo, diciamo. Come un tronco in un temporale, non lo so che... Posso fare una citazione? Prego. No, allora, adesso mi faccio una piccola citazione per smentire un po' quello che stavi dicendo. Ok, vai. Perché... vabbè, io mi occupo di social proprio negli ultimi 2-3 anni. L'Università di Chieti mi ha chiamato per fare delle, come freelance, per fare delle lezioni proprio sui social. E anch'io ero un pochettino, come dire, insomma, io mi sono iscritto a Facebook, stiamo parlando dei primi anni, quindi una decina d'anni fa. Sì, 2007, bravo. E quindi ero tra i primi. Poi, no, sì, no, poi io frequentai per un po' Facebook e decisi che era una cazzata enorme, quindi mi allontanai e lasciai lì. Poi 3 anni fa mi chiamò l'università e mi disse: guarda, sei comunicare, tu sei un comunicatore, vuoi fare un corso su, eccetera. E io, naturalmente, attratto dal lavoro universitario, sì, che è bellissimo, ho accettato, e quindi sono andato a riqualificarmi completamente. E una cosa, tu parlavi, no, dell'essere risucchiati da questa mediocrità, no, che imperversa. Non è così. Non è così, soprattutto, no, noi infatti non ci eravamo aggiunti perché avevamo questa paura, ma adesso abbiamo realizzato che si può evitare. Facebook o i social in genere, nei social si tende a ricostruire quelle che sono le cerchie un po' più ampie dei propri amici o comunque di quelli che seguono i tuoi interessi. Quindi in qualche modo amplifica il tuo gradimento. Quindi avete fatto bene a... No, ma noi stiamo cercando di portare la cosa a un livello più sound of soul, cioè la nostra idea, cioè noi abbiamo deciso da febbraio, sbarcheremo in maniera abbastanza pesante sui social, nel senso che stiamo totalmente ripensando anche graficamente la questione riguardante il sito Facebook, Instagram, cioè saremo particolarmente presenti sui social per un intero anno, vorremmo fare questo esperimento. Noi abbiamo deciso che per un intero anno pubblicheremo tutto quello che succede nella nostra, cioè ovviamente editandolo, tutto quello che succede nella nostra sala prove, come vive veramente un gruppo musicale vero. Cioè il principio sarà che noi massimo ogni settimana, 10 giorni, ci sarà una canzone nuova sui social, senza per forza dover essere un... una questione, perché c'è anche tanta prosopopea dietro le uscite. Invece a noi ci piace suonare, ci piace fare canzoni nuove continuamente, quindi si potrà seguire dal momento che io arrivo in sala prove e insegno con la chitarra la canzone a Paolo al prodotto finito, registrato, che noi ci siamo, adesso ci siamo attrezzati con, insomma, con strumentazione congrua a registrare. E tutto quello che faremo sarà fatto da noi, noi siamo coloro che lo registrano, coloro che lo mixano, coloro che lo producono, i video ce li facciamo da soli, perché vogliamo cercare di capire, di far capire ai nostri colleghi musicisti che cioè si può fare, si possono fare cose belle, cose molto belle, anche senza passare per i canali tradizionali del talent o del... La via è questa, Però noi l'esperimento estremizzato è che oggettivamente alla fine abbiamo fatto dei calcoli tra le uscite settimanali e i vari spin-off che abbiamo già preventivato esserci su questo progetto, che ricordiamo, diciamo per la prima volta, il nome lo dirà Paolo del nostro progetto. The Jay Talbot Sessions. Che è un nome... Mica... No, è un nome, in realtà è un nome, perché Jay Talbot è un personaggio... Ecco, spiegateci. No, è un, a noi poveri. È un personaggio della nostra... Un po' della nostra... Che ci ha sempre accompagnato. Era il nome di un giocatore, di un videogioco... Sì, praticamente un videogioco che avevamo... Perché prima facevamo, diciamo, le prove le facevamo a casa mia. E io ho questo enorme seminterrato dove da una parte facevamo, appunto, c'era la sala prove con tutto quanto, tutti gli strumenti, dove noi suonavamo per ore e ore. E poi quando finivamo eravamo stanchi, passavamo da quest'altro lato dove c'era la televisione con questa, con tutte le console, la PlayStation, esattamente la PlayStation. E tutti i giochi per giocare. This is football. Sì, esattamente. E ci stava questo, appunto, questo personaggio che è sempre stato simpatico sì, perché il terrorista lo pronunciava in un inglese sì, approssimativo, esatto, allora quindi ci piaceva Jay Talbot, appunto di Jay Talbot Session, perché appunto volevamo riportare un attimino anche noi stessi a quei tempi quando facevamo musica proprio di musica di distinto, musica per fare, per fame di... Non per i discografici. Esattamente, proprio musica per esprimere quello che avevamo dentro, senza se avevate uno 0,2% di chance di piacere al music system, ma stasera è andato tutto. Se il Jay Talbot Project funziona, le Jay Talbot Sessions il funzionano... Il famoso Jay Talbot, che era il designer di quella famosa macchina della Simca. Era io, lui, Simca Talbot. Te lo giuro, non so se è Jay. Se è Jay, non lo so. Io sono Jay Talbot. Era un fregnaccione. Sì, Jay Talbot sarebbe Paolo. Noi siamo i Session Man. Sì, esatto. Allora sono i Session Man. Matthew the Finger, Carosi, Kaioshin, L'Aquila, The Eagle. Questo è lui. Poi c'è il piccolo dolce Matley. Corebo. Corebo sono io. No, a parte gli scherzi, il progetto è di... Alla fine saranno più di 50 canzoni originali in un anno. Se non saranno 50, saranno 40. Possono essere pure 55, non lo sappiamo. Dipende poi da quello che succede. Ma replicherete anche su YouTube, quindi canale YouTube. Tutto. Cioè, sarà facilissimo reperire la nostra musica. Bravi. Sarà totalmente gratuita. Ci piace. Anche questa è un'altra cosa che è concettualmente sbagliata. Il fatto dei musicisti che guadagnino così tanti soldi sulle riproduzioni è una cosa sbagliata, perché il musicista dovrebbe guadagnare magari sui live, sulle performance, però una canzone, se è una bella canzone, dovrebbe essere una proprietà di tutti. Cioè non è che gli eredi di, che ne so, di Leonardo ci fanno pagare per andare a vedere le loro opere. Quindi questo è un altro... A Gioconda ci fa pagare lui. No, quello è all'esterno, per esempio. Non è che... Sì, ma è vero, no? Questo è l'altro grosso discorso di cui i musicisti sono avidi, non c'erano mai i loro soldi, perché lo dicono, forse quando diventeremo ricchi anche noi diremo chi no, sono fondamentali. Io ho frequentato... I diritti sono un nostro diritto. Diritto al diritto. Ho frequentato un po' i musicisti, quelli famosi, diciamo, ma non perché io, perché organizzavo delle cose, ho visto cose incredibili, cioè gente che prima voleva l'assegno, no, nemmeno l'assegno, il contante, e poi stava con un piede sul palco e un piede sullo scalino. Sì. Ne abbiamo visti tanti anche noi. L'unico di cui un bellissimo ricordo, l'ho detto l'altra sera, è Piero Marras, al quale io telefonai, mi ricordo, per farlo suonare qui da noi, e lui inizialmente chiese una cifra. Lui naturalmente col suo gruppo si doveva spostare dalla Sardegna, quindi insomma c'erano un po' di spese, no? Lui mi disse mi sparò una cifra, e io dissi: maestro, io adesso mi do una regolata e E allora cominciai a lavorare per trovare fondi, ma non si trovavano i fondi, e allora ritelefonai, c'ho ancora il suo numero di telefono, e lui mi disse: vabbè, guarda, possiamo fare quest'altra cifra. E sì, ma nemmeno quest'altra cifra. Noi, alla fine mi fece lui: ma sì, ma quanto ci avete? E io dissi: noi ci abbiamo, mi ricordo, 4.000 euro, una cosa del genere. Vabbè, 4.000 euro vengo lo stesso, perché vi sento bravi, vi sento che voi, e pago tutte le spese io di aereo e di viaggio ai miei musicisti e di albergo. Cioè, praticamente venne quasi... È un'altra generazione, lo dicevamo prima. Quasi gratis, sì, sì, sì. E infatti è un grande personaggio. Cioè, Marras che mi dice dopo il concerto: ah, Carlo, se capiti in Sardegna, vieni a trovare. Cioè, voglio dire, è un qualcosa che ti segna, no? Che ti fa capire che in fondo, finalmente... E infatti, certo. Poi Marras, tra parentesi, è uno di quelli che quella parabola di cui parlavi tu l'ha fatta, perché lui con Stazzi Uniti fece un grossissimo successo, ma poi lui ha ripiegato completamente, è andato fuori dal sistema musicale italiano, molto adesso quasi esclusivamente musica popolare, un po' mista, insomma è uno di quelli che ha preferito la passione ai soldi. Probabilmente felice. Sì, molto felice, l'ho visto, bravo, molto felice. Quindi questo è il prossimo... Sì, poi i dettagli noi dal lunedì inizieremo. Noi, se vi possiamo dare una mano, vi diamo una mano. Grazie, grazie. No, magari sì. A gratis. No, dal lunedì 22 partirà sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook, partirà tutta il progetto, che ripeto, la durata è di un anno, non sappiamo quanto durerà, però il principio è di cercare di far capire se è possibile far tornare i musicisti solo a suonare e a produrre musica, e vedere, e anche così si distingue chi produce musica buona da chi produce musica non buona. Diciamo pure che c'è un aspetto promozionale che, insomma, sì, l'aspetto promozionale non guasta. Sì, quello, sì, no, esatto. L'aspetto è la promozione del progetto piuttosto che del soggetto, piuttosto che dell'oggetto, piuttosto che del rigetto. No, ma è una strada originale, secondo me anche buona, bella, perché comunque dà anche un po' il senso, dà anche un senso, no, a tutto il lavoro che vuoi, a tutto anche lo farlo studio vedere, sì, come esatto. Si vive, come sì, vive, esatto, un gruppo, perché noi, cioè, fondamentalmente siamo anche quattro grandissimi, sì, amici, quindi siamo sempre insieme. E anche perché comunque la maggior parte delle persone arriva ad ascoltare la canzone che è già vestita, che già cammina da sola, che già esprime tutto ciò che ha da dire. E in questo progetto invece si riesce a vedere proprio il parto della canzone, tutto come si forma, come diventa. Anche l'eventuale aborto della canzone. Esattamente, sì, certo, ce ne sono tanti. Taglieremo tutti quei progetti, verranno tagliati clamorosamente. Sarà un outtake solo dopo che diventeremo famosi. Esattamente, solo dopo che... Allora, in attesa di vederla sta cosa, sì, ma... faccio una domanda, ma sì, voi come fate, nel senso, a costruire una canzone? Da cosa, cioè, questo l'ho chiesto anche a altri. Come... Il nostro metodo ormai è consolidato in questi 10 anni. Cioè, io generalmente io arrivo con una canzone scritta, testo e musica, la insegno a Paolo. E io, avendola scritta, arrivo con una visione della canzone, che poi viene spesso a volte assecondata, a volte migliorata, a volte addirittura totalmente stravolta dal contributo degli altri musicisti. Ma litigate? No, lascia parola, diciamo, cazzate, siete d'accordo? La parola ci scorniamo, esatto. Discutete, sono delle faide, sono delle lotte fratricide, soprattutto quando si mettono tra a discutere Corrado e Danilo, te lo giuro, io me ne voglio, mi vorrei trasferire su un altro pianeta, Irlanda. Su Marte, non lo so dove, però è un loop continuo. Però una cosa di cui siamo molto orgogliosi è che noi, dopo ormai 15-16 anni sempre insieme, abbiamo anche abitato insieme, stiamo sempre insieme, siamo ancora tutti insieme, siamo molto amici, ci vogliamo ancora bene, quindi con tutti i suoi limiti, il nostro metodo probabilmente funziona, perché altrimenti... Sì, sì, sì. Io posso confermare, sono proprio quattro, anche se vogliono dimostrare il contrario, sono proprio quattro bravi ragazzi. Io sono senza bravissimo. La faccia da bravi, perché senza la faccia da roba, hai guardato quattro bravi ragazzi aria molto sarcastica e mi hai guardato. Se parlavi di Danilo, ok. No. Sì, Danilo è un bravissimo ragazzo. Fatemi finire. No, io dicevo così perché i cliché, gli stereotipi, no, del rocchettaro che fa la musica, è sempre uno dice ma questo ho sballato. No, quello è Matteo. Invece no, sì, sono Matteo veramente bassissimo. Quattro bravi ragazzi, sì, che sì, non sì. È il titolo del non vuole quei ironizzare sì. Quei bravi andiamo ragazzi. A messa tutte le domeniche, cioè tranquillo. Beh, esageriamo. Okay. Una domenica sì, una domenica. Sì. E comunque diciamo a messa di là. E comunque siamo arrivati quasi alla fine. Io mi sono divertito, voi? Sì, sì. È stato bello, sempre bello poter parlare dei progetti. Che no, ma che ne dite di questa esperienza? Molto interessante. Bello, bellissimo. Molto interessante. Dove si può dire liberamente il proprio pensiero, è sempre una... Più libero di così, Sì, infatti, si muore. Sì. Sempre un po' un posto dove passare. Ma è questa la nostra... allora, il nostro progetto di Radio Cerrano, e io non mi stancherò mai di ringraziare la Torre del Cerrano, il Parco Marino che ci ha in qualche modo incoraggiato in questo, e ripeto, stiamo lavorando, il nostro prossimo studio con molta probabilità sarà a Torre Cerrano e lì saremo veramente dei privilegiati, perché sì, c'è qualcosa e lì vogliamo di... tornare anche noi assolutamente sicuramente problema. sicuramente sì. Stiamo cercando appunto di allargare queste nostre vedute, e da lì proprio si allarga veramente. Quello è uno dei posti più belli del mondo, sì, assolutamente, oggettivamente sì. È vero questo molto noi bello. Io lo tocco con mano tutti i giorni, perché lavorando un po' con loro vedo lo stupore della gente, soprattutto stranieri che arriva lì. Io l'altro giorno ho accompagnato delle troupe televisive, dei giornalisti tedeschi, inglesi, che sono praticamente rimasti a bocca aperta. Sarebbe opportuno che qualcuno, anche noi qui, ce ne rendessimo conto, perché c'è ancora questa... No, noi l'abbiamo, devo dire, ce l'abbiamo questa sensibilità del nostro territorio. Noi sì, amiamo, sì, assolutamente, noi lo amiamo. Molto, nelle ma nostre canzoni ci sono tante... siete musicisti. Sì, sì, certo. Tanto Gran Sasso, tanto se devo essere sincero, sono anche fiero dell'incontaminazione. Sì. Del nostro, della nostra... Ho preso un tatale, purtroppo. Sì. Io, bravo. L'incontaminazione... diciamo tra virgolette turistica, che da un lato magari ti può portare molti vantaggi economici, turistica sì, però dall'altro ci andrei piano lato, sì. Ci andrei piano, perché purtroppo Torre Cerrano, purtroppo l'abbiamo detto prima, è un fortino assediato dai palazzi, dagli alberghi, dalle case, e anche sì, dall'altra parte da chi invece vorrebbe pescare, vorrebbe sfruttare il mare per altre cose. Quindi se non si è arrivati a capire che la nostra risorsa principale è la natura, il mare, le montagne, sì, esatto, è tutto, ma non la ma nostra, lo è da, come lo è da sempre, la nostra come esseri umani, sì, come esseri umani, sì, come esseri umani. Noi siamo anche abbastanza fortunati, perché quando noi diciamo che a qualcuno, quando io dico a qualcuno, come ho detto a una troupe tedesca che è andata la mattina a fare sci alpinismo sul Gran Sasso, e poi è venuta a farsi il bagno di fronte alla torre, e ti dicono voi siete super fortunati, lo siamo. Ma infatti anche noi, quando abbiamo vissuto all'estero, che abbiamo avuto l'occasione, abbiamo notato questa cosa, comunque sì, la vicinanza delle sì, due cose, mare e montagna. Noi potevamo rimanere in Irlanda, noi siamo tornati perché vogliamo cambiare le cose da qui, perché ci piace vivere qui, questa è la realtà, noi ci piace vivere in Abruzzo. Sì, noi, sì, infatti, tutte le limitazioni, però vorremmo sempre per girare il mondo, però partire da qui, questa è la nostra base, per tutta una serie di motivi che non stiamo Abruzzo, dalle radici. Allora, bene, con che cosa chiudiamo? Vi facciamo sentire una canzone registrata appunto con questo, diciamo, con questo registratore analogico tutti insieme. È una canzone particolare, si chiama L'inizio della storia, ed è l'ultima canzone del disco, ed è una canzone, sembrerebbe una canzone triste, però ad ascoltare bene le parole, che sono in italiano quindi sono di più facile comprensione. Sì, in realtà, anche se la mia pronuncia, la pronuncia dell'italiano di Paolo non è un granché, però ci sta lavorando. Meglio l'inglese. Meglio l'inglese. No, è una canzone che teoricamente, se uno ha voglia di esplorare la propria parte che non è convinta delle di alcune cose, questa canzone, diciamo, gira intorno a quell'argomento e si chiama L'inizio della storia. Bene, andiamo. Della storia un vecchio barbuto appoggiato ad una balaustra di stelle create da lui, da lì guardava le sue creature che lo hanno tradito, gli hanno crocifisso il figlio e gli hanno mentito, lui ci ricorda così. Inizio della storia un inglese un po' matto che una volta parlando di scimmie provato a spiegarcela a tutti, ma non gli hanno creduto, gli hanno strappato i disegni, lo hanno vestito bene, portato a mille convegni, e lui è morto così. Inizio della storia, una casa in campagna, con finestre tonde e sale in giardino, io ci passavo il tempo e imparavo l'onore, avevo una cavalletta per amica, riconosceva il mio odore e le insegnavo così. Non avere paura di me, se puoi goditi gli anni che hai, non provare dolore per quelli che dolore non provano mai, ed asciugati gli occhi e le guance, si contenta di quello che sei, e ricordati che il divenire non era che musica, e musica è, non era che musica, musica è. Inizio della storia, una tempesta di giocolieri neri in un uragano di morti per gioco. Io mi rattristavo, avevo gli anni di una marmotta, lo portarono via in slitta, che aveva le ossa rotte e il suo cane fuggì. Inizio della storia, l'uomo di pietra che cammina scalzo tra sassi e muschio e vermi della terra umida, lui ha il coraggio di ricordare ed ama la gente, non si guarda mai alle spalle e non teme niente, e mi disse così. Sii gentile con i tuoi fratelli, spendi tutti i soldi che hai, dona più di ciò che ricevi e ripaga l'avaro con umanità, e sprigiona il tuo canto impetuoso, rompi gli argini della realtà, lotta fino all'ultimo giorno per chi non ne ha possibilità, per chi non La storia, un rigore sbagliato, una notte con stelle di marmo e cieli di corallo. E mi abbandonerò quella notte d'estate, la marea mi riporterà le scarpe ed io a casa andrò. Siamo alla fine, ormai ci siamo quasi, sono le 22.06 minuti primi e Schegge ormai è quasi terminato, anzi diciamo che è terminato. Abbiamo ascoltato questo brano bellissimo, devo dire, vi faccio i complimenti in diretta. Grazie. Paolo è sparito. devi alzare di più il... Vedi? E allora... è il caso anche di ricitare tutti i componenti del gruppo dei Sound of Soul. Danilo Malatesta, ladies and gentlemen, alla batteria il piccolo Dolce Matley, al basso Matthew The Finger, tutti gli altri strumenti a corda Matteo Carosi, Paolo Traini e Corrado De Fabritis. Allora, sono quattro bravi ragazzi, vi dicevo, che sanno fare anche musica e hanno anche abbastanza le idee chiare, e questo ci fa piacere. A noi fa piacere per quello che possiamo, insomma, sponsorizzarvi. Ecco. Ma ti possiamo chiedere una cosa a questo punto? Come no? Quando trasmetterete dalla torre? Sì. Possiamo venire a fare un programma, però ci portiamo gli strumenti e suoniamo un po' come in diretta. No. Sì, e dai. Sappiamo suonare meglio di come sappiamo parlare. Sì, quindi, esatto. Come no. Magari. Copieremo i Beatles. Perché no? L'ultimo programma, l'ultimo concerto. Sul tetto. Non siamo adesso testimoni tutti quelli che stanno seguendo che Carlo Puena ci ha appena invitato a suonare. Invitato a suonare sul tetto. È andata bene. Allora io sì, infatti fino adesso era andata bene. Allora no, io qui sono Carl Bartelboom. I'm sorry Carl Bartelboom. E anche lì, no, col discorso del progetto vostro, il mio Bartelboom c'ha tutta una storia dietro, che perché è il personaggio di un libro di Baricco. Bravo, sì. Vedi lo scrittore del gruppo. Ci siamo documentati prima. Esatto. Per fare bene. Non fa la figura di questi sono forti. Sei mia moglie. Allora, dicevo, e quindi niente, io vi ringrazio di essere venuti, di averci portato la vostra musica. Grazie a voi, perché grazie a te. Sì, a voi. L'80% dei ringraziamenti deve andare al signore che sta qui dietro, perché è lui un po' l'ideatore di questo progetto di Radio Cerrano. Io poi sono salito in corsa e ne sono molto felice, perché le sensazioni che riprovo di fronte al microfono sono impagabili. Anzi, noi facciamo un appello a tutti quelli che vogliono magari che sono passati attraverso le radio private. Le radio private per noi in Italia sono state fondamentali. Chi ha vissuto quel momento, anche se non c'ero, però confermo. Chi ha vissuto quel momento è un momento irripetibile. Noi lo stiamo ripetendo un po' alla volta, ma con lo stesso gusto, la stessa passione e la stessa libertà. Allora, io vi do appuntamento a martedì, vero Carlo? Con Mississippi Mood, il Mississippi Mood di Butterfly, che sarà qui. E io naturalmente faccio la spalla a Butterfly, che è il personaggio principale, con della buona musica blues, sì, molto blues. E poi giovedì vediamo un po', prossimo giovedì sarò ancora qui con Schegge, però non so, il programma dovrò inventare per giovedì, vedremo. Go with the flow. Sì. Yeah. Allora, di nuovo grazie. Buona serata. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie mille a tutti. Buonanotte a tutti, ragazzi. Todo el mundo, puedes escuchar Radio Serrano Web, la radio de la costa adriática. Abruzzi, Italia. A virtual land.